Meccanica quantistica, relatività, fisica statistica, elettromagnetismo. Come sono state fatte queste scoperte? E poi tutte le curiosità sulla vita di Niels Bohr, di Newton o di Marie Curie. Bisognerebbe intervistare i fisici del passato. Ma queste interviste sono impossibili. No, non esistono interviste impossibili per Radio Moka. Intervista impossibile a Galileo Galilei. Voci di Giovanna Pacini e Franco Bagnoli. Professor Galilei, che onore avere qui il padre della fisica moderna. Dove mi devo sedere? Sapete, non ci vedo più tanto bene. Sieda qui. Ecco, perfetto. Allora, come le ho spiegato prima, questa è un'intervista radiofonica. Io le farò le domande e lei può rispondere come vuole. Se ho capito bene, ci ascoltano in tante persone. Che cosa fantastica! Magari avessi avuto a disposizione questo strumento ai miei tempi. Però non ho capito bene che cos'è un'intervista. Qualcosa tipo il Sant'Uffizio in cui mi interrogate per sapere se ho contraddetto le sacre scritture affermando che il sole sta fermo ed è la terra che gli gira intorno? Ma no, nessuno la vuole giudicare. E poi oggi il modello eliocentrico è accettato da tutti, anche se ormai superato da una visione ancora più democratica, in cui non c'è nessun centro dell'universo. Sì, ne avevo sentito parlare. Beh, mi fa piacere che venga riconosciuta la verità, ma ce ne hanno messo di tempo. In effetti, la Chiesa ha accettato il sistema copernicano solo nel 1822, togliendo le opere che parlavano di questo aspetto dall'indice dei libri proibiti, e la sua riabilitazione completa è del 1992, ben 359 anni dopo la sua condanna. E poi, di che riabilitazione si parla? Nella riabilitazione mica dicono che hanno sbagliato loro. Secondo il loro parere, sarei io che non avrei fornito abbastanza prove a quel tempo. E dire che lei si è sempre comportato da cattolico ortodosso ed è sempre stato molto accorto nel formulare le sue critiche. Beh, se devo essere sincero, a me della religione non importava nulla, ma ai miei tempi era bene andare con i piedi di piombo. Giordano Bruno fu estradato da Venezia e poi bruciato in Campo dei Fiori nel 1600, quando io avevo 32 anni e insegnavo a Padova. E per che cosa? Per aver sostenuto che ci sono infiniti mondi e che la Terra si muove. Quindi io mi facevo rilasciare un certificato ogni volta che andavo a messa lontano dalla mia parrocchia e ovviamente ci andavo regolarmente. Da poco è stata ritrovata la sua lettera del 1613 a Benedetto Castelli, che poi venne copiata in grande numero e circolò come se fosse quasi un manifesto della libertà della scienza. Già, io non sono un teologo e non mi interessa per niente il dibattito filosofico, però non potevo supportare che si pretendesse di ritenere le sacre scritture più importanti dell'evidenza sperimentale, ovviamente su questioni di fisica. Sacre o non sacre, erano state scritte da uomini migliaia di anni prima e ovviamente non potevano contenere molto di più della conoscenza di quel tempo. Però, dopo aver scritto di getto la prima versione, la limai alquanto, cercando di eliminare, per quanto possibile, le affermazioni tipo quanto detto dalle sacre scritture è falso, sostituendolo con un più diplomatico presentano talvolta delle proposizioni che sembrano distanti dal vero quanto al nudo senso delle parole. E infatti la sfangai, almeno all'inizio. Lei ha sempre sostenuto il primato dell'esperimento rispetto alla tradizione. Certo, sapete, prima di me, se c'era un qualche problema, prima si andava a cercare nei testi degli antichi e poi, se proprio non si trovava nulla, ci si metteva a discutere su cosa avrebbe detto Aristotele al riguardo. Questo ovviamente per quanto riguarda la scienza, per così dire, accademica, perché gli artigiani, gli ingegneri avevano da tempo superato le conoscenze dei greci o anche dei romani, provando e riprovando. Leonardo da Vinci è forse l'esempio più noto, ma non è certo il solo. Certo, anch'io a volte ho un po' trasceso. Ci racconti, ci racconti. Nel 1619, Orazio Grassi pubblicò un trattato in cui si parlava delle tre comete apparse l'anno prima. In particolare, Grassi sosteneva che la terza cometa fosse un corpo celeste privo di luce propria e orbitante circolarmente in una traiettoria posta tra la Luna e il Sole. Io, incredibilmente, pensandoci ora, sostenevo la tesi che le comete fossero addensamenti di vapori terrestri illuminati dal sole, e pochi mesi dopo pubblicai, sotto il nome di Mario Guidacci, il discorso delle comete, che contraddiceva le tesi del Grassi. Questi replicò con lo pseudonimo di Lotharius Sersius Cigensanus, con un trattato il cui titolo inizia per La Libra Astronomica, e lì fece l'errore di non usare argomenti di logica, appellandosi invece alla saggezza degli antichi. Uno degli argomenti della polemica era se le comete si potessero scaldare per attrito con l'aria. Il Grassi Sarsi era di questo avviso, ma per avvalorare la sua tesi raccontò un aneddoto secondo cui a Babilonia si coceva le uova facendole girare vorticosamente con la fionda. Beh, a questo punto mi scatenai, scrisse di getto il saggiatore, nel quale con la bilancia squisita e giusta si ponderano le cose contenute nella libra. Ora questo già nel titolo era un gioco di parole riverenti, dato che la libra è la bilancia del pizzicagnolo, il saggiatore è quella dell'orefice. Ed ecco cosa scrissi. Se il Sarsi vuole che io creda che i babiloni cocessero l'ova col girarle velocemente nella fionda, io lo crederò, ma dirò bene la cagione di tale effetto essere lontanissima da quella che gli viene attribuita. E per trovarla vera io discorrerò così. Se a noi non succede un effetto che ad altri altra volta riuscito, è necessario che noi, nel nostro operare, manchiamo di quello che fu causa della riuscita desse effetto. E che non mancando a noi altro che una cosa sola, e questa sola cosa sia la vera causa. Ora, a noi non mancano le uova, né le fionde, né uomini robusti che le girino, eppure non si cuocono. Anzi, se fossero calde, si raffreddano più presto. E perché non ci manca altro che l'essere di Babilonia, adunque l'essere babiloni è la causa dell'indurirsi dell'ova, e non l'attrazione dell'aria, che è quello che io volevo provare. È possibile che il Sarsi nel correre la posta non abbia osservato quanta freschezza gli apporti alla faccia quella continua mutazione dell'aria? Eppur se l'ha sentito, vorrà egli credere più alle cose di 2000 anni fa, succedute in Babilonia e riferite da altri, che le presenti e che egli in sé stesso provi? Ovvero, se non si può ripetere l'esperimento, non si può neppure sostenere l'esistenza del fenomeno. Ma aveva ragione il Sarsi sull'effetto dell'attrito dell'aria. E anche sulle comete. Già, in effetti non provai nemmeno a fare un esperimento per verificare se l'attrito dell'aria può generare calore, ovvero contraddissi in pieno quello che sostenevo. Ma il Sarsi mi aveva veramente fatto arrabbiare con quel suo appellarsi ai babiloni. Comunque non è stata l'unica volta che ho sbagliato clamorosamente. Ci racconta anche questo episodio? Già, e questo mi brucia ancora di più di quello che vi ho appena raccontato. Come sapete, io per tutta la vita ho cercato di trovare il sistema di poter studiare quello che mi interessava, senza essere distratto dalla ricerca del salario. Sono andato via da Padova, dove pure ero più tranquillo che a Firenze, un po' perché si mangiava veramente male, ma soprattutto perché là dovevo insegnare, mentre qui ero matematico del Granduca, senza obblighi di insegnamento. Quando ero a Padova, riuscii a vendere il cannocchiale, che non avevo inventato io, alle autorità della Serenissima in cambio di un buon stipendio e poi cercai di sfruttare il business degli orologi. Ma lei non è ricordato per aver costruito orologi? In effetti non li avevamo. Io avevo scoperto l'isocronismo delle piccole oscillazioni del pendolo, ovvero il fatto che se le oscillazioni sono di piccola ampiezza il loro periodo rimane costante. Questa è la base dell'orologio a pendolo, ma manca uno degli ingredienti fondamentali, ovvero come rifornire di energia il pendolo stesso. Negli anni della mia vecchiaia c'era un nome che stava venendo fuori legato agli orologi, Huygens. Ah, lo scopritore di Titano, la luna di Saturno, e poi noto per il principio di Huygens, su come avanzano i fronti d'onda? Proprio lui. A quel tempo lui era in stretta corrispondenza con l'Accademia del Cimento e il mio allievo Vincenzo Viviani provò a contestargli la paternità dell'orologio a pendolo. Un problema di copyright? Beh, ci giravano dietro dei bei soldi, ma non è questo il punto. Lei sa perché scrissi il dialogo su due massimi sistemi? Certo, per provare che la Terra gira intorno al Sole e non viceversa. Già, ma appunto io non avevo le prove inconfutabili. Nei dialoghi io cercai di usare le maree come prova del movimento della Terra, ma dato che mi mancavano gli elementi poi trovati da Newton, non riuscii a produrre un argomento definitivo. Ma allora aveva ragione Giovanni Paolo II a dire che non aveva prodotto argomenti indiscutibili a favore dell'ipotesi copernicana. Effettivamente era così, ma quel che è peggio è che scrivemmo Huygens sostenendo che eravamo in grado di costruire orologi molto precisi. E lo sa che cosa avevamo trovato? No. Che i pendoli, se lasciati oscillare per molto tempo con un meccanismo di ricarica, tendevano a ruotare piano piano. Per evitare tale rotazione, applicammo un secondo filo. Non capisco che cosa voglia dire questa rotazione. Ma come non capisce? Avevamo trovato il pendolo di Foucault 130 anni prima di lui e avevamo la prova della rotazione della Terra sotto il naso. Ma come spesso mi è accaduto, non feci gli esperimenti che mi avrebbero indicato quali effetti sarebbero stati presenti se la Terra effettivamente avesse ruotato. Non sarebbero stati esperimenti molto complicati, bastava costruire una giostra e vedere come si sarebbe comportato un pendolo mentre girava. Io credo che lei si stia torturando troppo con il suo rimorso. Lei ha dato il via alla scienza moderna, ha reso celebre l'ipotesi copernicana e il suo trattato su due nuove scienze ha aperto moltissimi nuovi campi di ricerca. È vero, ma mi angustia molto riconoscere che effettivamente sono stato un ottimo divulgatore, ma forse come scienziato non mi sono comportato in maniera ottimale. No, ma lei si dimentica i suoi contributi fondamentali al metodo scientifico, senza contare le sue osservazioni della Luna sulle macchie solari e i satelliti medicei. Ma che dire del fatto che quando ho osservato Saturno ho preso i suoi anelli per due lune che gli stavano attaccate? Beh, col suo cannocchiale ha fatto anche troppo. In fondo, anche l'ottica era ancora lontana da essere sistemata. Ed essere riuscito a fare osservazioni che ha fatto con il suo attrezzo è sicuramente un'opera eccezionale. Sai che ho provato a guardarci dentro al suo cannocchiale al Museo Galileo a Firenze e non sono riuscito a vedere nulla? Quello era uno dei problemi. Ci voleva una bella abilità per vedere qualcosa. Il campo di vista era molto ridotto e non mi stupisco più che i sapienti, invitati a dare un'occhiata, non siano riusciti a vedere niente di interessante. Certo, c'era anche il prosciutto ideologico a fare da schermo, comunque. E adesso cosa fa? Oh, in questi giorni sto discutendo con il professor Coriolì, giù nel limbo. Lui ha predetto un altro effetto della rotazione della Terra, ovvero il fatto che un grave, lasciato cadere da una torre, come feci io dalla torre di Pisa, dovrebbe deviare verso est. E lo fa? Gli effetti sono piccoli e facilmente mascherati dalla turbolenza dell'aria. Nel 1790, a Bologna, l'abate Giovan Battista Guglielmini fece veramente questo esperimento, gettando delle sfere di piombo da 2 centimetri dalla torre degli Asinelli, 98 metri, trovando una deviazione di 17 mm, compatibile con i suoi calcoli. Purtroppo, al primo lancio, l'abate centrò in pieno una persona che passeggiava lì sotto, tal Giovan Pietro Marchesi, che morì sul colpo. Poveraccio. Probabilmente si tratta di una leggenda urbana, eh? Comunque, la forza di quello lì è facilmente visibile sul moto dei proiettili, ed è la causa dei fenomeni atmosferici tipo tornado e trombe d'aria. Non ha smesso di studiare, quindi. Che ne dice dei progressi attuali della fisica? Direi che il mio moto è sempre attuale, eppur si muove. Grazie mille, professore, e buon proseguimento. Grazie anche a voi. Adesso voglio vedere se trovo Newton. Mi hanno detto che ha un caratterino. Avete ascoltato una puntata delle Interviste Impossibili ai Fisici del Passato, una rubrica della trasmissione Radio Moca di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini, in onda su Nova Radio. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia e del Centro per lo Studio di Dinamiche Complesse dell'Università di Firenze. I testi sono stati pubblicati da Apice Libri e sono accessibili su caffescienza.it.